su Runtime Radio, la Tulp Radio Geek. Ehi, tu, sì, dico a te. Ti stai domandando come mai il dispositivo con il quale di solito ascolti Survival Hacking non ti sta facendo godere delle puntate di questo meraviglioso show? Ti sta quasi venendo la voglia di smontare tutto o hackerare il sistema operativo? Ma no, rilassati, è tutto sotto controllo. Presto tornerà tutto alla normalità. Io sono Davide Gatti e sono qui per annunciarti che sta per iniziare la nuova stagione di Survival Hacking, sempre e solo su Runtime Radio. Cerca Survival Hacking nella app che usi abitualmente per ascoltare i tuoi podcast e metti il canale nei tuoi preferiti. Oppure vai su www.runtimeradio.it per vedere tutti i podcast che il network realizza, dove potrai trovare sia me che molti altri amici con i quali passare tante ore di grande intrattenimento. Ti aspetto tutti i martedì alle ore 6 a partire dal 19 gennaio 2021 con la nuova stagione di Survival Hacking. Mi raccomando, non mancare. Questa mattina mi sono svegliato tranquillo, sereno, con un rumore nelle orecchie. Sapete quei rumori che in qualche maniera vi ridestano, vi riportano l'attenzione, vi svegliano, insomma, in qualche modo. E questo rumore era... Potreste pensare che era una tubatura, invece no. Era il gatto che vomitava. E quindi, insomma, è stato un buongiorno un cazzo. Buongiorno. Che vuol dire? Che il Covid è nottambulo. La nostra mafia, che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna. Andata la fascia, pezzo di merda. Mo te sputo, che fai? Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. Ciao amici del lunedì mattina di Runtime Radio, benvenuti a questo nuovo appuntamento e questo nuovo anno di Buongiorno un cazzo. E buon anno un cazzo anche perché non ho avuto modo di farvelo tramite questa trasmissione prima in altri modi, e quindi eccomi qua a darvi gli auguri, insomma, di questo nuovo anno, questo nuovo decennio, anche se in realtà è iniziato un anno fa, però siamo andati all'uno, quindi abbiamo scavalcato il decennio, e che inizia, insomma, con tanti bei presupposti. Faccio subito un po' di pubblicità, giusto per dire che, come avete sentito dallo spot, la prossima settimana ricomincia Survival Hacking con la sua settima stagione, se non erro, e che questa sera saremo su OGM, e questa è una sorta di anticipazione di quello di cui discuteremo questa sera. Detto questo, invece vorrei soffermarmi un secondo all'inizio sulla famiglia del giovane Regeni. Che si entra a pieno diritto, si accomoda con tanto garbo e tanta gentilezza seduti in quel salotto delle persone che attenderanno la verità e che non sapranno mai che cosa è successo e perché è successo e se ci saranno dei responsabili, come tante volte è successo nella storia di questo paese o nella storia internazionale anche in maniera più allargata. Si accomoderanno tranquillamente in questo salotto, si metteranno lì in attesa di qualcosa che non arriverà mai, di una verità, del motivo per cui il figlio è stato ucciso e soprattutto quali possono essere i responsabili. La cosa più grave in merito a questa storia è che questo ragazzo è stato ucciso da una nazione straniera, quindi al di fuori, diciamo, di quelle che sono le brutte cose che compiamo noi di solito, ucciso da una nazione straniera, da servizi segreti di una nazione straniera, senza che noi si possa sapere il bene e il perché questi agenti segreti abbiano compiuto queste azioni, lo abbiano torturato, lo abbiano interrogato e poi lo abbiano fatto morire. Una nazione straniera che ancora resta impunita, e non soltanto, ci insulta in maniera grave, sbeffeggiandosi di noi, della nostra procura, dei nostri pubblici ministeri, delle nostre indagini, sentendosi evidentemente protetti da un muro di gomma nel quale si sono costruiti intorno. Una nazione che in parte dipende da noi, con la quale abbiamo delle relazioni diplomatiche ed economiche che avrebbero dovuto essere quantomeno incrinate rispetto alla nostra incapacità di portare alla famiglia di un giovane quantomeno la verità, indipendentemente da quale essa potesse essere, quanto potesse essere scomoda, perché chiaramente, ragazzi, qui stiamo parlando di una nazione, l'Egitto, che alla fine riesce a prendersi gioco di noi, e noi che durante questo decennio abbiamo ritrovato una dignità nazionalistica, che siamo andati a difendere i Marò, siamo andati lì, cioè nel senso a parlare dei Marò, di tutte quelle cose che ci rendevano orgogliosi italiani, abbiamo difeso degli assassini e non siamo stati in grado di difendere un ragazzo per il quale noi non sappiamo per quale motivo è successo tutto questo, no? Ma io parlo anche di quei politici che vanno sempre in prima fila, che si mettono lì a dire perché l'Italia prima di tutto, perché ovviamente anche lì c'è un interesse politico, no? Sul difendere o non difendere una determinata persona. Qui stiamo parlando di un ragazzo ucciso da degli agenti stranieri per i quali noi non riusciamo ad ottenere la verità, dovendo anche fare delle forzature a livello internazionale. Questa è una cosa che io veramente non mi capacito e continuerò a non capacitarmi, perché quando un padre e una madre si siedono in quel salotto garbatamente insieme a tanti altri seduti prima di loro, mettendosi in fila ad attendere un qualcosa che non arriverà mai, ragazzi, io è una cosa che non auguro a nessuno, perché deve essere proprio brutto sapere che hai seppellito tuo figlio ma non capire il motivo. Amici miei carissimi di Runtime Radio, quanto è figa l'America, ce l'hanno insegnato in tutti i modi, ce l'hanno fatto vedere nei film, ce l'hanno fatto ascoltare nelle canzoni, che grande patria della libertà che è l'America, che grande posto dove i sogni si realizzano, dove le frontiere sono sconfinate, dove c'è posto per tutti, l'America. Cioè, qualcuno ci diceva che l'America è uno di quei posti dove tutto può succedere e puoi anche contestarla, non vederla esattamente nello stesso modo, ma ci sono delle cose che sono sacre in America, sono quei precetti che noi probabilmente come europei o come italiani forse non abbiamo mai avuto nello stesso modo, ossia l'intoccabilità, la sacralità delle proprie istituzioni. L'estrema destra degli Stati Uniti è sempre stata una realtà particolare, tenuta un po' ai margini ma anche sottovalutata, capace di fare attentati, capace di fare omicidi, capace di fare azioni di terrorismo interno di cui noi sappiamo poco, perché sono quel tipo di informazioni che, dell'America, che ci arrivano poco, che vedono l'USA come la realtà ultracapitalistica che dovrebbe assottigliare sempre di più tutti quelli che sono i presupposti istituzionali, ideali, legali, cioè una realtà talmente liberista da dover scavalcare anche le stesse leggi, anche le stesse regole. E queste realtà non riconoscono o non si riconoscono con quello che è ovviamente il governo federale, per quanto lo idealizzano in un modo del tutto loro. E questa è una discussione che faremo questa sera in OGM alle ore 21, mi raccomando siateci, perché improvvisamente l'America si è svegliata un giorno e si è resa conto di essere vulnerabile al suo interno, vulnerabile proprio nel cuore delle sue istituzioni, laddove pensava di essere assolutamente intoccabile, sottovalutando tutta una serie di segnali e di situazioni che erano oramai in corso da settimane, anzi erano in corso da mesi, dove il suo stesso Presidente della Repubblica ha comunque creato una situazione sovversiva, cioè è come se io voglio cercare di sovvertire me stesso, ha creato una situazione sovversiva all'interno del paese, istigando la gente alla rivolta, istigando la gente alla violenza, istigandola sul presupposto di bugie, su falsità, su notizie inesistenti, che però sono caricate da tutta una serie di realtà ideologicamente molto forzate, ideologicamente assolutamente fuori controllo, e soprattutto anche da realtà come sette o organizzazioni ambigue che fanno ovviamente dell'ideologia e del lavaggio del cervello insomma la propria forza. Quindi questo è chiaramente una situazione molto molto particolare, perché per la prima volta dopo non si sa quanti tempo, forse probabilmente per la prima volta dopo la guerra civile, la gente è riuscita ad arrivare al cuore della democrazia americana, è riuscita a entrare nel Parlamento, ha superato le barriere del Campidoglio. Io negli Stati Uniti non ci sono mai stato, ragazzi, però tutte le persone che sono state negli Stati Uniti mi hanno sempre detto quanto certe cose in America non si possono fare, cioè tu sei libero di fare quello che ti pare, ma non devi mettere il piede nel posto sbagliato, non devi mettere la mano nel posto sbagliato, perché sennò il piede te lo spezzicchiano e la mano te la rompicchiano. E invece tutto questo discorso, questa rigorosità, questa grande difesa delle proprie istituzioni, del proprio governo, del cuore della propria democrazia non c'è stato, è venuto meno. Ed è questa forse la cosa sulla quale molti non si concentrano realmente, perché oggi anche all'interno della politica americana c'è questo tentativo di impeachment, andare a mettere in moto un emendamento che possa tenere in considerazione il fatto che il presidente non sia più nelle condizioni di governare un paese. Ok, tutto giusto, tutto bello, ma voi vi dovete interrogare del perché quelle persone sono entrate all'interno del vostro Parlamento senza che nessuno li fermasse. Ricordiamo che l'amministrazione Trump è stata quella, insieme ad altre amministrazioni probabilmente, che quando un negro si incazza gli sparano, quando quattro imbecilli vestiti da redneck americani entrano in Campidoglio, i poliziotti si scansano. E questa è una cosa sulla quale gli americani devono riflettere, perché evidentemente questa cosa che non nasce da Trump, ragazzi, perché non può nascere da Trump, perché io non posso pensare che sia solo una persona così politicamente diseducata, così istituzionalmente incapace di comprendere come funziona il mondo, sia in grado di concepire un complotto del genere. Secondo me lì c'è un discorso che proprio parte a monte, che va oltre Trump stesso. C'è un'organizzazione dietro a una cosa del genere, e questo è secondo me il vero problema sul quale gli americani si devono interrogare. C'è un problema istituzionale negli Stati Uniti, del quale il Partito Repubblicano ne è anche responsabile, tutta quell'estrema destra, quel blocco Tea Party che comunque spinge per portare avanti candidati di questo tipo. Perché Trump non soltanto ha compromesso rapporti internazionali con l'avallo del Partito Repubblicano, ma ha anche incrinato i rapporti all'interno della nazione stessa, portando la gente, ovviamente una piccola fetta, ovviamente un blocco estremista, però l'ha portato comunque di fronte alle istituzioni e lo ha fatto entrare, e ci sono stati anche dei morti e c'è stata l'evacuazione, e ragazzi, cioè, hanno tirato fuori la Guardia Nazionale per cose diverse, diciamo, forse non meno gravi, perché meno gravi Non si può fare questo tipo di discorso. Allora, sicuramente per cose che apparentemente potevano essere meno pericolose, ecco, da questo punto di vista. Quindi perché questa gente è arrivata là? E poi non è, dice, sai, cazzo, era una cosa così improvvisata. Questa è una cosa strisciata. Io mi sono sentito il video di Massimo Polidoro e sono d'accordo al 100%, sono le stesse cose che dicevo io qualche giorno fa, qualche settimana fa anche, perché questa non è una cosa che è nata così dal niente, questa non è una cosa improvvisata, questa è una cosa organizzata, e su questo le istituzioni americane si devono comunque interrogare, perché quello che è successo è a tutti gli effetti un tentativo di colpo di Stato. Perché quando una folla delle persone o un esercito o qualcuno armato entra dentro un Parlamento è un colpo di Stato. Questo è un tentativo che alla fine non può rimanere impunito nella più grossa e importante democrazia a livello mondiale, soprattutto perché stiamo parlando della maggior superpotenza dal punto di vista globale, armata fino al collo con le armi nucleari che possono spazzare via l'umanità in qualsiasi momento, in mano a potenzialmente dei fanatici. È una cosa, ragazzi, che fa venire i brividi, altro che Fallout e tutta la fantascienza, ragazzi. E questa gente che non scherza, questo è secondo me un punto sul quale dobbiamo assolutamente riflettere. Bene, pure stamattina ci siamo un po' sfogati, ragazzi, ne parliamo questa sera in OGM insieme a Walter Sbano, Francesco Lobby Frontali, Puccio Carmine Consol e ovviamente Marco Gualdi. Ne parliamo perché questa è una questione che va un po' raccontata, io l'ho analizzata, ho espresso un po' le mie considerazioni, però l'ho fatto perché è veramente un tarlo che ho nella testa da giorni, è una cosa che non riesco a capacitarmi, ma questa sera la racconteremo bene. Io qua ho fatto solo uno sfogo delle osservazioni, la racconteremo bene in OGM perché ragazzi, oh, cioè, quello che è successo lo possiamo minimizzare quanto ci pare, ma in realtà non possiamo minimizzarlo, cioè non è giusto, non è fattibile una cosa del genere. Bene, detto questo, io intanto vi saluto, visto che insomma avete scritto in chat, ci siete stati, saluto Vargion, Lobby Frontali, DJ Hooker, Alex, Raccuglia, Roberto Marin e tutte le persone, insomma, che magari qualcuno mi è sfuggito. Sapete che io quando faccio la diretta e sono impreso in questo flusso e sono da solo, la chat praticamente non la leggo perché non ce la faccio, non sono capace, e quindi ragazzi dovete sopportarmi così, come il vecchio bestemmiatore che ho sempre promesso di essere quando ho iniziato a fare questa trasmissione. Detto questo, vi rimando quindi, come ho detto, a questa sera alle ore 21 OGM, domani mattina e giovedì mattina, ricordatevi, alle 7:20 c'è il mattino all'Oron Podcast con Leo Vargion e Giovedì sera invece alle ore 21 Archeologia Informatica torna con i super computer nella storia del cinema mondiale. Venerdì sera invece torniamo sempre alle 21 con Ludico Forum, anche se c'è il derby Roma-Lazio, insomma questa c'è grossa crisi per quanto mi riguarda. Potrei anche mancare alla trasmissione, se la possono fare pure da soli, però non credo, ma vediamo. Comunque torniamo con Ludico Forum alle ore 21 venerdì sera con una puntata intitolata Dannazio Memorie, quindi tutto quello che può sparire nell'era della distribuzione digitale. E poi vabbè, sabato sera come al solito sapete c'è Runtime by Night e Mono domenica, vediamo, poi insomma ci organizziamo per vedere che tipo di puntata ci sarà domenica sera con Mono alle ore 21. Detto questo vi ringrazio per avermi ascoltato come sempre, ragazzi, siate vigili, siate attenti e soprattutto incazzatevi con tutti quei politici che non fanno niente per dare una mano a due genitori che vorrebbero semplicemente sapere la verità. Su Facebook, Telegram e Instagram Runtime Radio. Mettiti in contatto con noi. Scopri il nostro palinsesto su www.runtimeradio.it.